Tutti i giapponesi in questa sala sembrano sedati. Sembrano godere di quella serenità liquida che danno le droghe. Come se vincere e vedere scendere un centinaio di palline luccicanti in quella vaschetta assomigliasse all'incongruenza della felicità, che non capisci mai se arriva per caso o per merito tuo. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. È 29 di dicembre del 2010. Sono Matteo Caccia e sono qui. Somerset Maugham ha scritto che anche nell'atto di farsi la barba c'è una filosofia. Il che significa, forse, non lo so, che per quanto banale sia un'azione, se ripetuta spesso ingenera una sorta di intuizione estetica. Personalmente concordo dal profondo del cuore con l'idea di Maugham. Quindi può darsi che, annotando le mie personali e modeste riflessioni sulla corsa, io non sia sulla strada sbagliata, tanto come scrittore quanto come corridore. Forse io ho un carattere complicato, ma se non metto le cose nero su bianco non riesco a pensare. E per riflettere sul significato che ha per me la corsa a piedi, ho dovuto rimboccarmi le maniche e buttar giù quanto segue. Una volta a Parigi, sdraiato nella mia stanza d'albergo, per puro caso, ho letto sull'International Herald Tribune un articolo dedicato alle maratone internazionali, corredato di interviste a concorrenti famosi. Una delle domande era: che genere di mantra reciti mentalmente per farti coraggio durante la corsa? Era straordinario su quante cose riflettessero tutte quelle persone correndo per 42 km e 195 metri. Già solo questa scoperta mostra quanto sia ardua una competizione sportiva come la maratona. Cioè, se non ti reciti di continuo un mantra, non ce la farai mai. Tra i concorrenti ce n'era uno che per tutta la corsa, dall'inizio alla fine, rimuginava su un motto appreso dal fratello, un maratoneta anche lui. Pain is inevitable, suffering is optional. Quello era il suo mantra. Il dolore non si può evitare, ma la sofferenza è opzionale. Supponiamo per esempio che correndo uno pensi: non ce la faccio più, è troppo faticoso. La fatica è una realtà inevitabile, mentre la possibilità di farcela o meno è a esclusiva discrezione di ogni individuo. Credo che queste parole riassumano alla perfezione la natura di quell'evento sportivo che si chiama maratona. Quando si decide di fare un viaggio in un paese, perlomeno quando decido di andare in un posto, ci sono delle piccole cose che mi si incuneano la testa e che stanno lì a rodere fino a che arriva un giorno in cui dico: ok, vado in quel posto. Non so se vi è mai capitato, no? Possono essere veramente decine le motivazioni per cui uno decide di andare negli Stati Uniti o in Brasile o in Vietnam, no? Per cui è, che so io, uno vuole provare ha provato un piatto eritreo e vuole andare in Eritrea, si fissa con l'Eritrea e comincia a fare ricerche per andare in quel posto. Oppure uno, molto più semplicemente, ha conosciuto una donna brasiliana e vuole andare a trovarla. Uno ha visto talmente tanti film su New York che non riesce a fare a meno di andarci. A me è successo invece di leggere questo pezzo, è un'introduzione a un libro di Murakami che si chiama L'arte della corsa. Ho letto l'introduzione di questo libro, poi ho letto l'intero libro che parla di corsa, non parla del Giappone. Parla della sua capacità di mettersi lì e correre in media una o due maratone all'anno e ho deciso che sarei andato in Giappone. La cosa strana è che in realtà a me Murakami non piace nemmeno così tanto come scrittore, però ho letto della sua vita. Murakami era uno che aveva un locale di musica jazz, ce l'ha avuto fino a 30 anni. Poi un giorno ha deciso che voleva chiuderlo e voleva mettersi a farlo scrittore, così, di punto in bianco. Ha mollato il bar, lo ha chiuso e si è messo a fare lo scrittore. Ecco, sono piccole ossessioni come queste, secondo me, che alla fine ti fanno decidere di andare a visitare un paese piuttosto che un altro. A volte sono questioni culturali, no? Che sin da quando sei cresciuto ti hanno parlato del grande blocco sovietico, allora vuoi andare in Russia oppure vuoi andare a Cuba prima che muoia Fidel Castro. A me invece succedono in questo modo: leggo una cosa, assaggio un piatto, vedo un documentario in televisione e mi parte il trip. È partito il trip per andare in Giappone qualche anno fa. Ci sono stato qualche giorno. Ho visto tutte le cose più o meno che si potevano vedere delle grandi città giapponesi. L'unica cosa che non ho fatto, e me ne rammarico, infatti l'ho inserita nella mia lista dei desideri, cosa che ancora non ho fatto ma presto farò, è stato andare a Nagano a fare il bagno con i macachi insieme alle terme. Qualcuno degli ascoltatori l'anno scorso l'ha fatto invece, ma ha anche mandato una cartolina. Ecco, io quello non l'ho fatto, però ho fatto diverse cose. Ho scoperto che cos'è un izakaya, sono stato a vedere dei pazzi ragazzi che giocavano a un gioco che si chiama Pachinko. Sono stato in una piazza che si chiama Shibuya, dove ho visto una statua di un cane. Insomma, tutto quello che ho fatto l'ho appuntato e in questi giorni quello che sto facendo è reggervi i diari dei miei viaggi. Ho chiesto di mandarli anche voi, quindi oggi vi leggerò prima il mio di diario e poi ve ne leggerò un altro di un ascoltatore, per l'esattezza di un'ascoltatrice. Invece, qualche anno fa, in Giappone, è andata così. Tokyo, marzo 2007. Shibuya si chiama il quartiere in cui mi trovo. L'ho chiesto ad un tizio che era un incrocio tra un vigile urbano, un poliziotto e un nonno vigile. Avete presente, no? I pensionati che regolano il traffico all'uscita delle scuole. Affioro in una piazza larghissima, piena di insegne pubblicitarie luminose che tengono palazzi interi. Mi ricorda un po' Times Square, a New York. Per quella strana ragione per cui, se sono in un posto sconosciuto, devo subito trovare dei punti in comune a luoghi che conosco, in modo da sentirmi al sicuro. In giro ci sono ragazzine e ragazzini, tutti vestiti allo stesso modo. Per lo stesso motivo per cui ho paragonato questa piazza a Times Square, cerco di capire che sensazione mi dà stare in mezzo a questa miriade di persone che fanno avanti e indietro in questa piazza. E la sensazione che mi viene in mente si riassume in una parola: struscio. Credo che il primo posto in cui mi trovo deve essere lo struscio di Tokyo. Vengo come colto da un'onda di panico. Voglio allontanarmi immediatamente da qui. Non so dove andare. Sto per infilarmi di nuovo in metropolitana quando in questa piazza assurda, in una città assurda, vedo qualcosa di ancora più incredibile. Una statua a forma di cane. La statua effettivamente è assurda, ma la storia che leggo sulla targa è meravigliosa. Dunque, il cane che ha ispirato la statua si chiama Achiko. Achiko aveva un padrone che accompagnava tutti i giorni alla stazione di Shibuya. Lo accompagnava la mattina e la sera tornava ad aspettarlo, quando lui rientrava a casa. Questa cosa tutti i giorni. Finché un giorno il padrone, mentre si trova al lavoro, muore per un attacco cardiaco. Solo che Achiko non lo sa e quella sera lo va ad aspettare alla stazione. E il giorno dopo ancora, e quello dopo, e ancora, per 11 anni, fino al giorno della sua morte. Guardo la statua di questo cane e penso che se l'è meritata tutta. Penso all'abnegazione di questo animale per il suo padrone e penso che anche lui, allora, aveva bisogno di fare qualcosa nelle sue giornate, nella sua vita. Fare compagnia al suo padrone, stargli vicino e far sì che il suo padrone stesse vicino a lui. Penso che sia stato un bene che il padrone sia morto sul colpo, perché lui sapeva che Achiko sarebbe andato ad attenderlo tutti i giorni e probabilmente non avrebbe retto questa sofferenza. Saluto Achiko perché mi è venuta fame e penso che è arrivato il momento di mangiare qualcosa. E insieme penso anche che il Giappone inizia a piacermi. Marzo 2007. Finalmente oggi ho incontrato Ferdinando. Ferdinando è un ex collega di mio padre. Vive qui a Tokyo da 15 anni. È un signore grosso e con la barba. Quando apre la bocca e parla giapponese, sembra doppiato. Ci vediamo sotto il mio albergo verso l'ora di cena. Lui durante il giorno lavora, però mi aveva promesso che mi avrebbe portato a mangiare in un posto dove lui mangia molto spesso. E quindi ora stiamo camminando a piedi per le vie di Tokyo. Stiamo andando in un posto che deve essere una specie di trattoria, credo. Se non ho capito male, lui l'ha chiamata Izakaya. Ci arriviamo in 10 minuti di taxi, ma da fuori non si capisce bene di cosa si tratti. Potrebbe essere di tutto. Una bottega, un negozio di fiori, un tabaccaio. Sempre ammesso che in Giappone esistano i tabaccai. L'unica cosa che la fa sembrare un luogo in cui all'interno accade qualcosa è una lampada, appesa fuori. Ha una forma a siluro. È fatta di carta bianca e ha una scritta giapponese. Ferdinando apre la porta, dice qualcosa in giapponese e mi fa segno di entrare. Nell'izakaya l'atmosfera è completamente diversa da quella che ho visto finora, dove i clienti sono tutti seduti per terra, ridono e parlano ad alta voce. Sì, non è solo quello. C'è qualcosa di diverso nel loro modo di muoversi, di stare seduti. Non lo so, è proprio nei loro corpi che c'è qualcosa di nuovo. Nei loro corpi, nel loro modo di stare insieme. Ecco che cos'è. È che si toccano. Questa è una cosa che ancora non avevo mai visto fare e che quasi non avevo notato. Una cosa a cui invece sono solitamente abituato, visto che in Italia la gente gesticola, si tocca a vicenda. Qui invece prima di stasera avevo sempre visto le persone mantenere una sorta di distanza di pudore. Non faccio nemmeno in tempo a chiedere a Ferdinando come mai qui dentro sia così diverso da là fuori, che sono investito da una ventata di alito alcolico. Una roba come non ne sentivo dai tempi delle feste al liceo. Mi volto, vedo un signore gigante, vestito di bianco, con una fascia nera in testa. Abbraccia Ferdinando, mi guarda e poi abbraccia pure me. È completamente ubriaco. Ci fa accomodare a fianco ad altre persone che ci sorridono. Io mi sento un po' inebriato da questa atmosfera di festa e inizio a salutare e a sorridere a chiunque. Ferdinando mi dice che qui non si ordina, non si chiede, si mangia quello che ti portano. E quello che ti portano è sashimi. Punto. Mi chiede se mi piace il pesce crudo. Gli rispondo che a Milano mangio spesso giapponese. E lui fa un sorriso come a dire: ok, ne parliamo dopo cena allora. Intanto sento dei colpi secchi e fortissimi arrivare da dietro al bancone. Alzo gli occhi e vedo l'oste, quello con la fascia in testa, che con una sorta di sciabola sta sminuzzando del pesce come se stesse uccidendo un drago. Dopo pochi secondi abbasso gli occhi e il pesce è già servito sul nostro tavolo. Ferdinando prende le bacchette, fa un leggero inchino verso di me e attacca a mangiare. Io osservo sti pezzi di pesce talmente crudi che sembrano vivi. Riesco ad unire le bacchette, afferro un pezzo di quello che credo sia tonno e lo porto alla bocca. Sento il pesce freddo che mi scivola giù, lungo la gola, fino allo stomaco, e il sapore di mare che mi riempie le narici. Poi la lingua, appena pungolata dalla salsa di soia, dal wasabi. E il wasabi inizia a crescere. Con un po' di ritardo, mi esce dagli occhi in forma di lacrime. E tutto è carico, è pieno, è incomprensibile, come questa lingua. Sempre Tokyo, fine marzo 2007. Oggi è l'ultimo giorno a Tokyo. Come per tutti gli ultimi giorni dei miei viaggi, non ho programmato nulla e gironzolo per le strade della città. Faccio un giro in un enorme grande magazzino. Compro un paio di magliette e una giacca, qualche libro di illustrazioni e poi sono terribilmente attratto da un posto che non capisco cosa sia. Sembra una sala giochi. Di quelle dove si passano le sere estive quando si è bambini cercando di battere record su record. Non me lo ricordo, ma non credo però che nelle sale giochi di quando ero bambino ci fosse questo odore. È un misto di sudore acido e di fumo, il tutto ovattato dall'odore freddo dell'aria condizionata che rende tutto ancora più nauseante. La cosa che sicuramente è diversa dalle sale giochi della mia infanzia è che non ci sono i videogiochi qui. Ogni parete, ogni angolo di questo locale sono occupati da una sorta di flipper verticale. Metto la testa fuori dalla porta e leggo l'insegna. Pacinco, c'è scritto. Che non so se sia il nome di questa sala o il nome di questo gioco a cui tutti stanno giocando. All'interno ci saranno 100 persone, tutte sedute su sgabelli girevoli, di fronte a questi flipper. Stringono una manopola che spingono meccanicamente, sembrano ipnotizzati. A vederli così mi fanno venire in mente quegli uomini nei bar italiani, quelli che stanno all'angolo dietro al frigo delle bibite a giocare videopoker. Hanno la stessa aria assorta e fuori dal tempo. Ma qui c'è qualcosa di diverso. Cioè che questo gioco presuppone un minimo di perizia, visto che con la manopola si governano due piccole guance che colpiscono la palla e la indirizzano dove si vuole. Le palline d'acciaio però non entrano una ad una, ma a decine, tutte insieme, e scendono lungo il percorso come se piovessero da una grondaia rotta. Nessuno parla. L'aria è piena solo dello scroscio di queste palline che, quando si vince, scendono a cascata in una vaschetta. Io sono terribilmente attratto non tanto dal gioco in sé, che ancora non ha nemmeno ben capito come funziona, ma dall'effetto che sembra avere su chi gioca. Tutte le persone in questa sala sembrano sedate. Sembrano godere di quella serenità liquida che danno le droghe. Come se vincere e vedere scendere un centinaio di palline luccicanti in quella vaschetta assomigliasse all'incongruenza della felicità, che non capisci mai se arriva per caso o per merito tuo. Non perdete un attimo di tempo. Se siete a casa, oppure se avete uno di quei cellulari che vi permette di farlo, andate su YouTube e scrivete Pachinko, scritto P-A-C-H-I-N-K-O. Ci sono delle immagini di questi folli giapponesi, folli, non ho un altro termine per definirli, che sono davanti a queste specie di flipper verticali che giocano questo gioco. Ha qualcosa di ipnotico. Anche vederlo dal vivo è incredibile, anche per l'odore di cui vi raccontavo prima, ma ha qualcosa di ipnotico vedere non solo questa palla d'acciaio, queste palline che cadono a cascata e poi magari quando vincono riempiono la vaschetta sotto. No, ha proprio qualcosa di ipnotico vedere la faccia di questi individui giapponesi che davanti a questo flipper, non saprei come altro chiamarlo, si perdono completamente. Ecco, il pachinko è un'ossessione, così come per me era diventata una piccola ossessione lo scritto di Murakami riguardo alla corsa, che poi mi ha convinto ad andare in Giappone. Però, a proposito di ossessione, oggi non ci fermiamo, perché tra poco mando la borsa, ma dopo la borsa vi leggo il diario, che di questi diari di viaggio è l'unico che non riguarda un vero e proprio viaggio, ma riguarda un'ossessione. La protagonista che me l'ha scritto si chiama Paola, ed è una persona che poi sentiremo, io l'ho sentita prima al telefono, mi sembra anche sia una persona normale, però ha un'ossessione non tanto per il Giappone quanto per degli animali, che sono dei galli giapponesi che si chiamano Shamo. Ecco, io non so se gli Shamo hanno portato o porteranno prima o poi Paola in Giappone, so però che il suo racconto riguardo a questi galli ha qualcosa di ossessivo ed ipnotico. Io sono qui. Nella foto siamo nella baia di una città. Potrebbe essere qualsiasi baia di qualsiasi grande città, perché ci sono i grattacieli sullo sfondo. Di qualsiasi grande città del pianeta. Ci sono dei motoscafi che girano, per lo più turistici. Ci sono i grattacieli sullo sfondo. Però c'è uno di quei simboli di cui alcune città si fanno fregio, direi. Perché uno di quei simboli che appena lo vedi capisci in che città sei, ma capisci anche in che continente sei. E ti basta quello per capire che ti trovi a Sydney. Sono Gabriele Frigeri Porta, 24 anni. Dopo la laurea, in questo grande viaggio di crescita dall'altra parte del mondo, camminando sull'Harbour Bridge, guardo l'Opera House di una ventosa Sydney. I'm here, io sono qui. Ebbene, questa è la foto di oggi, è sempre la foto di un viaggio, visto che di viaggi stiamo parlando in questi giorni. Potete vederla sul sito radio24.it, alla pagina di Io sono qui. È proprio il protagonista è la Sydney Opera House, che è il teatro dell'opera di Sydney. Andate a vedervela, anche se già sapete di cosa sto parlando. Visto che adesso parliamo di diari, è arrivato il momento di leggere uno dei diari che mi è arrivato. Quando ho chiesto diari di viaggio, io non mi aspettavo che mi arrivasse un racconto come questo. Mi sono arrivati diari di estati in giro per il mondo, di viaggi di lavoro, di viaggi di nozze, e poi è arrivato questo racconto che più che un viaggio direi che è un trip. Poi dopo il racconto parlerò con la persona che mi ha inviato questo diario. Adesso io vi direi, mettetevi lì tranquilli e ascoltatevi la storia dei galli giapponesi. Paola, 25 marzo 2007. In campagna pioveva tanto. Bel posto. 100.000 odori verdi, muschiati e organici mi colpivano. Gatti, pavoni, anche un cavallo. Dentro ai box un sacco di volatili, impegnati a fare le loro cose da galli. Nessuno di loro mi guardava e io faticavo a concentrare l'attenzione su uno o sull'altro. Apparivano sfuggenti, totalmente disinteressati all'attività umana che si muoveva al di fuori dei loro mondi di sabbia e di bambù. Era il mio primo incontro con loro. Con gli Shamo. 6 aprile 2007. Sole tiepido, altro invito in campagna. Accidenti, bello davvero. Somiglia parecchio ad un sogno. Una gabbia, si fa per dire una gabbia, è grande metà come metà del mio giardino. Si apre e sbuca un becco, poi un lungo collo ed infine tutto un animale. Che strano. Questo è un pollo? Ma è grandissimo e sta pure dritto e si avvicina. Ma com'è, non ha paura? L'istinto di conservazione lotta con la curiosità. Vince quest'ultima. Così rimango ferma, in apparenza tranquilla. Ma sento il cuore che mi batte forte. Il gallo rosso si avvicina sempre di più ai miei piedi e comincia una strana danza. Mi gira intorno un paio di volte, raccoglie una noce e me la deposita sui piedi. Questo non è un volatile, non è un animale. Questo è Joaquín Cortés che regala una rosa alla sua ballerina. Un codice comportamentale così inaspettato mi confonde, mi spiazza, quasi mi disarma. Scoprirò col tempo che non si deve essere amati per amare qualcosa. Il mio maestro si avvicina, lo afferra con dolcezza. Questo gallo rosso, che non sta facendo nessuna cosa da gallo, non sembra affatto infastidito dalle mani umane che lo accarezzano mentre lo tengono fermo per me. Allungo le mani e gliele metto sotto le ali. È caldo, è piacevole, è eccitante. Sì, è quasi sensuale. Un contatto e via. È fatta. Sono innamorata. E non mi piace perché è bello, perché accondiscende lo standard di razza, perché è il fratello del campione europeo, perché è simpatico, no. Mi piace perché mi emoziona. Pochi esseri viventi, fino a quel momento, mi hanno coinvolto in modo così intimo ed esclusivo al primo sguardo, al primo tocco. Sì, ok, ho pianto vedendo una balena, ho urlato parecchio davanti ad un baribal, sono decisamente permeabile dal punto di vista animali. Ma ho la netta sensazione che questa cotta diventerà amore vero. Di quelli che durano finché non si muore. Cambierà, si trasformerà, lascerà un po' di posto ad altri amori, altri innamoramenti, altre cotte. Ma il suo posto nel mio cuore è assicurato. Di più, fa già parte di me. I mesi che le circostanze mi fanno passare lontana dai galli sono spesi ad imparare. Documentarmi, cercare fonti, intervistare allevatori e appassionati, sfinirli con domande stupide. Che differenza c'è tra un Thai e un Taiwan? Per me è un imperativo, è una sorta di urgenza interiore. Il bagaglio di informazioni che raccolgo è minuscolo. Non certo per colpa degli interlocutori, tutti preparatissimi, tutti disponibili in modo imbarazzante, no, a colpa delle mie domande. Troppe volte vaghe e non testate sul campo. Finalmente, però, torno in campagna. Il mio maestro dosa magistralmente silenzi e risposte e mi impartisce la lezione più impagabile di tutte. Guardare con gli occhi e con il cuore, non con la testa, le orecchie o i pregiudizi. Posso solo immaginare la quantità di pazienza che sia servita per spiegarmi i tempi biologici, il tedio nell'ascoltare i miei commenti naif, il fastidio di avere un corpo estraneo in quello che, ora lo so, è l'Eden in terra. La tentazione di antropomorfizzare i comportamenti di uno sciamo è fortissima. Questi animali sono fra gli esseri viventi più simpatici con cui abbia interagito. Poi, proprio quando raggiungo un sano e scientifico distacco, uno di loro fa qualcosa che mi fa ridere, che mi intenerisce, mi commuove. E allora di nuovo scatta l'infantile, pura gioia per aver trovato un compagno per la vita. La lotta grande per riconoscerli l'un dall'altro, per innamorarmi di un soggetto e vederne lo stesso i difetti, per accondiscendere comunque sempre solo i miei occhi e il mio gusto personale, per non tenerli sempre tra le braccia, per accettare di amare un animale imperfetto e provare distacco per un altro che invece perfetto lo è. Stare con gli sciamo e occuparmi di loro annulla le sovrastrutture della mia mente, quelle create dai condizionamenti di una vita da bipede in plume, sempre in bilico fra obblighi, costrizioni e desideri, a volte frustrati, a volte non desiderati realmente. Stare con gli sciamo e occuparmi di loro mi assorbe completamente, e mentre mi concentro solo su di loro, conosco me stessa. Stare con gli sciamo e occuparmi di loro mi ha resa un essere umano più efficace e meno impuro. La tentazione di dare ai loro comportamenti nomi e spiegazioni umane non mi lascerà mai, credo. Però sciamizzare atteggiamenti e attitudini umane è sempre più naturale. Mi sono chiesta spesso con sincera e distaccata curiosità se non stessi diventando completamente idiota. Ma non sono tutti idioti, mielosi al limite dello stucchevole, languidi e insopportabili, gli innamorati. Meraviglioso effetto collaterale della mia ossessione per questi animali è stato aver trovato alcune fra le persone che mi piacciono di più al mondo. Insomma, ammetto, io non me l'aspettavo di ricevere un diario come questo quando ho chiesto dei vostri diari di viaggio. E invece Paola mi ha mandato questo diario e mi ha talmente incuriosito che io non potevo non leggervelo e soprattutto non potevo non sentirla. Pronto Paola? Ciao! Ciao, buongiorno, come stai? Bene, tu? Bene, bene, grazie. Senti, veramente, in due parole, questo più che un diario di viaggio sembra il diario di una storia d'amore con questi galli. Com'è nata questa cosa e prosegue questa storia d'amore? Sì, sta proseguendo e si sta intensificando, come avevo scritto in tempi non sospetti 3 anni fa, è diventata una storia d'amore vera, era un innamoramento che è diventato un pezzo del mio cuore molto molto grande. Ma senti, tu sei un amante degli animali in generale oppure per questi sciamo si chiamano, giusto? Si chiamano sciamo, sì. Che cosa hanno di particolare questi galli per essere così amorevoli e adorabili? Che cosa ha di particolare la donna di cui ti innamori? Non lo so di che cosa hanno di particolare, sono quello che a me piace, a me piacciono molto tutti gli animali, con loro è stata una folgorazione sulla via di Damasco, sarà per via del nome. Immagino. Senti Paola, l'ultima cosa, tu che cosa fai nella vita? Vendo spezie. Ok, quindi sei una persona normale, sei rubricabile a persona normale, diciamo. Penso di sì, okay. Me lo auguro. Paola, senti, ti ringrazio molto, grazie per la chiacchierata, grazie per il tuo racconto. Grazie, ciao, buona giornata, grazie. Grazie a lei, grazie soprattutto però a Tiziano Bonini, a Vittoria Mussini e a Paolino Corleoni. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi, dove siete?